sei anni mio padre, mia madre l'affetto. Poi l'anno dopo l'occhio nero, forse mio padre, ma che mistero. Dopo mia madre gli schiaffi in classe, poi il pomeriggio e la sera altri schiaffi. Allora mio padre tradisce mia madre a momenti finisce al creatore. Tu sei un matto in una casa di matti, io sono un matto, quindi niente ragazza. La vita è dura e la vita l'è bella, 45 anni basta veghe l'umbrella. La vita è dura e la vita l'è bella, classe 80 tieniti l'umbrella. Quindi dai, 6 anni, hai 10, bullizzato dai compagni e bullizzato ancora per altri 3 anni. E bullizzato ancora e poi ancora, ancora, ancora, finché non son finito nel tunnel della droga. Allora vai di birra a litri e spinelli di ogni tipo, e il cavallo che si abbassa, e si abbassa anche il voto, lo schianto con la moto. La fine della vita, la vita che ritorna a me, ma non al mio amico. La vita è dura e la vita l'è bella, 45 anni basta veghe l'umbrella. La vita è dura e la vita l'è bella, classe 80 tieniti l'umbrella. E si ritorna a scuola dopo un anno perso, per non affezionarti ora è tutto diverso. È sfiorato la morte quanto è breve la vita, e non lasci più che niente sfugga tra le dita. Quindi vivi il meglio e vivi pure il peggio, tipi amori o verdo, speri il sovradosaggio. Intanto il tempo che passa, tu che non tieni il passo. E allora lasci la scuola, inizi il lavoro, i primi dindini, i primi soldini. Ti trovi anche bene, ritorna il sorriso, e quando tutto sembra andare per il meglio, la ditta in cui lavori ti licenzia. La vita è dura, la vita l'è bella, 45 anni basta veghe l'umbrella. La vita è dura e la vita l'è bella, classe 80 tieniti l'umbrella. Inizia a lavorare per un altro datore, la polvere di vetro ti entra dentro i polmoni, si gela, si muore, ma tieni duro ed una voce ti consiglia chi te lo fa fare. Quindi torni a studiare, vai ad un corso serale, mentre ascolti una tua passione senti che sale. Inizia a disegnare, il professore ti vede, dice il liceo artistico è il tuo dovere. Inizia a lavorare per il vino e ti senti sempre più cretino, ti senti deficiente, non capisci più niente. Ed un collega dice torna a scuola figlio di insegnanti. Allora torni a studiare sopra i banchi di scuola, indietro mai di 3 anni, però niente canne, hai smesso anche di bere e studi con piacere, il liceo artistico ti fa proprio bene. 45 anni, 45 anni, 45 anni, 45 anni. La prima parte finisce qui, per la seconda parte a più in là, speriamo non tra altri 45 anni. Anzi dai, l'ultima strofa la facciamo ora. Altri 25 anni, un anno perso per il militare. Devi lavorare, arrivano i soldoni quindi lasci stare. Ma neanche è vero, inizia a barcollare tra un nuovo lavoro e voglia di studiare. Perdi altro terreno, vera vita dura, tutte strade chiuse, ormai sei troppo anziano. Altro overdose, lavori vari tipo l'imbianchino, sbagli preventivi, il conto in banca cala, provi con la strada, suoni le canzoni, dopo un po' ti sposi. Tutto a gonfie vele, ma non prendi bene, è tutto più confuso. Hai fatto altri lavori, tipo il benzinaio, ma era un mattatoio. In un giorno solo un buco di 100 euro. Allora il grafico freelance, pensi un'altra chance. Lavori come un toro ma non c'è dinero, provi anche il postino, fai gli straordinari, resti indietro col lavoro. Il capo dice te ne puoi andare, quindi adesso non mi chiedere perché cerco riscatto, e perché se un pezzo fa successo godo come un matto. Io faccio le mie storie, tu fatti le tue, e adesso ti saluto, bye bye.